chiamo medico. Ciao, bravo, mi si è spenta la radio. Ciao, buonasera. Lo sai che io non ho paura di niente. No, sto provando una radio. La modulazione com'è, Domenico? Buona, sempre tu solito, buono, perfetta, sania con tutto, matricini e basta. Prova a parlare tu un attimo. Tutto perfetto, chiaro, modulazione chiara, sono come sottofondo, Santiago, la manetta, tutto chiaro. Va bene, posso aumentare ancora la modulazione o va bene così? Schiaccia e molla la portante. tecnica di trasmissione, niente di particolare. Adesso va bene. Posso dare qua. piccoli, se non mi vesto, lo faccio sentire. Liberazione del passaggio di corrente sull'alimentatore, capito? Se tu gli metti qualcosa sopra, però senza tappare le cose, o comunque non vibra la cassa, capito? Quanto sei? A 1? A 3. E con che apparato lo stai pilotando? Con la faglietta cambio 23, la radio com'è? La radio è buona, ottima. Non cambia niente qui della radio, rimane sempre invariata? No, niente, niente, la radio rimane com'è. Adesso iniziamo a salire. Fagli una bassa e lui già. Luca, attenzione, Luca del Monte, ci sei? Porca miseria, devo eliminare questo. Devo eliminare questo rumore, però. Può metterlo su qualcosa che non propaghi la vibrazione. Per un attimo prima hai fatto wow, wow, si sentiva che lo stavi quasi eliminando. Così è eliminato, eh? Mentre invece così c'è. Così è eliminato. Allora, ti piace questo scattore? Funziona? Negativo eliminato, Non l'hai eliminato? No, c'è sempre. Non si può eliminare. È il trasformatore, nuvole rumorosos. Prova a metterci qualcosa sotto o qualcosa sopra, che non tappi la ventola però. È proprio sulla ventola, eh. Mira, non ricudì. Alza, te lo posso dire una cosa? Prova a alzare il microfono e tenerlo in mano. Cosa tengo in mano? Un microfono o lo tengo in mano? Le mano per vedere se la propagazione della vibrazione del coso, prova a tenerle in mano un attimo. Guarda, adesso sono andato dal tavolo, se ho in mano, si sente lo stesso. Molto di meno. Perché ce l'ho vicino. E immagino mettiamo la nostra parte adesso. Luca, se no ti faccio una bassa io, eh. Prova, che c'è il telefono, sta caricando io. Stai arrivando bene, molto bene. qualche polverone da Ussi. Aspetta un attimino, sto facendo scaldare. Vieni avanti, no? Non è voglia adesso, non è l'operino. Già capito cos'è. Ci vogliono dei gommi di sotto nel trasformatore, Cecilio. Dei gommi di isolamento per non far vibrare la cassa. Già l'hai ridotto dell'80-90%, Lo stretto, ma girano all'interno i dati, capito? Quindi bisogna aprirlo con calma, lasciarlo raffreddare, scaricare i condensatori e farlo. Abbastanza, ed è abbastanza, non ho la possibilità di darti lettura di segnale, ma è a bomba. Questi sono amplificatori che viaggiano, non sono amplificatori da giocare. Questi sono amplificatori che viaggiano. Quando si accendono picchiano forte. Ce la vedo Luca quanto il segnale. E dammi il numero di telefono che lo chiamo, dai. Aspetta, ci provo io, vabbè. Sta rispondendo uno dalla Spagna. Non io voglio parlare lo spagnolo, adesso questo lo parlo solo italiano. Ok, hai visto che fa roba che c'ha questo bestiame? La gamba. Sì, sono belle rosse, belle, giganti. Le ho viste, comunque non costano come dici tu, così tanto. Ci sono, cioè, le trovi in offerta. 34 euro 4. Non sto parlando di quello, io sto parlando di quello grande. Che adesso quale stai usando? Il piccolo. Ah, KK. Oh, quello grande ce l'hai enormi. E quello grande ci vogliono spingere per comprarlo. Questo già si difende così, già va bene. Ascolta la radio, quindi non ha cambiato per niente, è sempre uguale. Più ringhiosa, capito? È bella, bella, bella settida. A2 ce l'ho, tra le più tre. A2. Infatti mi ha detto il tipo comunque di tenerlo basso di amplificazione e evitare di utilizzare i microfoni amplificati perché dice che lo crepano. Hanno un sistema di RF molto delicato, bisogna stare molto attenti. Il 140 è pronto, adesso te lo faccio sentire. Scendere a uno con quel microfono a vedere, perché un attimino mi fai vibrare le casse, vanno in distorsione leggermente. Vai a uno. Così è uno. Non scende più di questo, tranne più 3, che ho la KB23. Quando trovo l'abbinamento non ce n'è per nessuno. Adesso domani spero di farcela portarle in base a Gavino a farmi fare l'attacco per tranne più 3. Cambiare l'attacco, mettere la 4, poi ti faccio sentire il dedico a vedere come esce. Questi microfoni sono... lavorano con questo tipo di radio, capito? Quarzate. Se quarzate la radio non c'è MC60 che tenga con tale più 3, questo te lo dico con molta tranquillità. Adesso quanto stai con te? Con quanti fatti sto andando? Non lo so. L'intero amplificatore non si sta nella scrivania. Non c'ho posto. Che scatto l'hai messo? Quello di Giulio sta spegnendo le luci, a quello di sua. Ehi, quei lampioni che ballano, ma non mi frega niente a quest'ora. Quando dobbiamo fare prove tecniche di trasmissione non ce n'è per nessuno da qua. Alle 11:30 ti faccio sentire a Domenico come esce da Olbia, quando gli arrivo. Il trasformatore segnale di quelli mastodontici. Il microfono è quello l'altro con l'ottone più 3. Che ho visto l'ottone più 3 l'altro con un barattino piccolino, non sto usando quello grande. Però te lo senti a più un certo modo. Tipo, non riesco a copiarlo. C'è un po' di QRM, io volevo segnare qua in zona a vedere se stava schiacciando sto coso. Puoi chiamarlo Luca, dai, vedi un attimo. Chiami i pomponi o gli bruci anche il buco del bus? Ma Antonio, noi abbiamo già fatto le prove, un amplificatore a questi livelli no, mi sente tutto salto, non riesce neanche a attenuarmi. Abbiamo già fatto negli anni passati, le abbiamo già fatte negli anni passati queste prove con Antonello. Antonello di oggi mi serviva, vedi, a vedere attenuato quanto se ne accendevo i lampioni della piazzale di oggi. Del vulcano? Sì, posso mettere ancora più nuove, no? Io sono al massimo, posso salire ancora. Peccato. Quale? essere 80 euro non gliene avrei preso due, duemi, e le avrei date allo stesso prezzo, per dire, allo stesso prezzo che ce l'hai tu a qualcuno. Ah, ma l'avremmo messo in macchina se avessi dato, ma probabilmente sì, avremmo fatto un mega impianto con la macchina di quelli allucinanti, con quelli di aletomi. Se sei venuto qua, avremmo fatto un impianto allucinante. Conosci la radio e poi porta bene il lineare, no, non ci sono cacchi, capito? Tu, è un'altra guba, no, non c'è niente da fare. Adesso mettiamo a posto anche l'altro. Ripeto, se costa così poco il coso non c'è problema. Sì, ce l'ho io, ti ho detto, ce l'ho in quell'altro amplificatore che non funziona, c'è un trasformatore rotto, ne ho uno di scorta io. Il relè è nuovo, nuovo, si toglie da lì il relè e si mette lì, sono uguali, sono sempre 8 pin commutazione a portante, quindi sono tutti uguali, quindi non cambia niente. Gigi, non lo puoi chiamare un attimino per darti un controllo? Gigi è già a letto adesso, Gigi si alza alle 4 del mattino, quando tu senti a Gigi sino alle 10, alle 11 e mezzanotte vuol dire che deve lavorare, il venerdì si trattiene lui, ma a quest'ora Gigi è già coricato. Sì, ma non c'è problema, già ho letto fino a un certo, no, non ci sono problemi, più. Ma come il topo, scendendo non è stata la trappola, no? E ha parlato giù giù, le devo far rendere la Sarai. Lo so, boh, non so cosa dirti, io sono giustamente, io vabbè, sì, entrambi i miei erano un attimino così, sono così, sì, c'hanno parecchi rumori. Sì, beh, 140, io lo so che è così. È molto, molto rumoroso rispetto al 430, al 440. Però come radio un po' lo stesso, non ci sono problemi. Cava. L'hai messa al massimo, prova a mettere tutto a manetta. A manetta, a manetta. A manetta. Ma me l'aspettavo un po' più ruggente. Rifammi vedere la differenza, ti rompo le palle, rifammi vedere la differenza col tuo. Questo è il mio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un po' più di fondo, cioè sembra che il microfono peschi un attimino più dietro, capito? Quindi ti riempie un attimino di più. Ed è la manetta lo stesso? Si conferma. Cioè, un po'. Comunque va bene lo stesso, assolutamente. Ma cosa l'hai fatto? L'hai aumentato che cosa? Leggermente l'LC, però non avendo il finale MOSFET non è che dà lo spunto più alto, infatti i picchi di modulazione rispetto al mio sono leggermente più bassi, non gli ho ancora toccato lo slider del Mickey Gain, quello l'ho lasciato ancora al massimo, adesso vediamo abbassando quello lì, se lo regola automaticamente, le dà quella tonalità tipo questa. Ma adesso sei 10 modulati 50. Aspetta che inverto la radio. No, non sono neanche a 10. È fredda, è ghiacciata. Questa deve salire, deve pompare. Pompare. Del tuo o il mio? Questo è il tuo. Stai pompando. Già pompa, non ti preoccupare, lasciala scaldare a 5-10 minuti, l'ho appena accesa e quando uso gli amplificatori o le radio le tengo tutte spente, non si sa mai che faccia rientro di RF. Si sente che sta andando meglio, eh? Assolutamente niente, hai il picco più alto di modulazione, va pochino più in autocontrollo, però ti dà la modulazione leggermente più compatta, più forte, capito? Vabbè, se non ti serve lasciamo un paio di giorni, ci lavoro sopra, non è che rubo il vago sì, capito? Il tempo di verificare alcune cosette, basta, poi lo attacchi e lo vedi tu. Bisogna vedere l'altro, cioè vedere l'altro, già l'ho già sentito l'altro, è questo che avevo il dubbio. Comunque l'N1 adesso è a posto, l'ND11 lo devi tenere tutto al massimo, non al minimo, tutto al massimo, e quando si esce l'NB1 praticamente ti distorce, ti deve distorcere la modulazione, te la regola solo toccando, mettendo a metà l'NB11, prova. Prova a parlare, parla. 1-2-3, 1-2-3, prova, sto parlando per fare una prova microfono, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, prova, prova, prova. Eccolo qua, perfetto. Quindi quando si esce l'NB1, il livello dell'NB level, lo slider, deve stare a metà, capito? Così deve funzionare. Gava gava. Lui già sta salendo dei watti. Dei watti. Ehi, sta salendo. Oh, come la modulazione, sta cambiando? Diventando più grintosa. Per diventare più grintosa basta fare così, vedi come diventa grintosa. Ma c'è tutta grintosa lì, bella grintosa. Già va bene, non ti puoi lamentare, dai, già hai fatto un buon acquisto. Buoni acquisti, dai. No, questo, vabbè, quello lì è una cosa supplementare che hai preso, va benissimo. Qualità prezzo, ottimo per la truppa, ma io sto parlando del 140. Potete portarmi questo perché avevano fatto qualcosa di diverso. Adesso già ho 10 watt di portante, ho 50 modulati. Troppi gravi però, Troppi? Gravi nella modulazione, cioè troppe cose gravi come tipologia di suono, un po' grave. Questo è il suo microfono, questo non sbaglia, non c'è niente da fare. Ci vuole Luca, se c'è Luca in radio ci dice esattamente dove dovrò agire. Io con lui c'ho un feeling di radio, lui dice devi correggere così, devi correggere qui, e io subito te la correggo. Se non c'è Luca non posso, anche perché tu non hai una radio molto grande, quindi tra 140 e 140, capito? Chi c'ha la KF mi interessa a me. Chi è? Buonasera, Sandro Conan, questa è Raghero. Poi Sandrino Conan, come stai? Claudio Sparviero. Siete sempre là. Conan, non Conan. Dai, già va bene. È un piacere, scusatemi se altre sera non sono entrato, sto facendo molto ascolto perché mi approfitta a fare delle cose per me, quindi vi ascolto, però mi dispiace non entrare magari a salutare, oggi ho voluto prendere un paio di minuti. Ti mando avanti Antonio Rode, ciao Sandri, buonasera, ben ascoltato, poi mi dici come ti arrivo di radio. Sto provando, sto dando due ritocchini a un 140. Avanti Antonio per Sandro. Sandro, 751, ben sentito, ben ascoltato da questa parte di Rode che ti super cordializza. Guarda un po' se sto arrivando a quel di Alghero, dai. Stop. ho sentito qualcosa di strano. Sì, ho sentito anch'io, anzi ho visto qualcosa di strano, però non so cosa dire. Ho sentito il segnale che cambia, non sanno qua è nuovo. Ottimo segnale, ottima radio come sempre, qua a Sassari, a casa di Claudio Sparviero. Mi dici come ti arrivo io di radio lì? La radio è super. Bene. Vero Sandri, cosa dici tu? se fosse qualcuno che mi ha mai dato fastidio. Ah no, penso proprio di no. Stiamo risvegliando le vecchie glorie, amplificatori da dentro l'armadio, baracchini degli anni Ottanta, capito? Però anche baracchini degli anni Ottanta con i vecchi microfoni si fanno sentire, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Dunque, quando c'è qualcuno disponibile che vuole fare qualche prova, io sono sempre pronto, non ho problemi. E se anche viene qua sotto con la macchina, fa solo figura di cacca. No, ma se vuole venire sotto casa adesso proprio così. Sotto casa adesso così, guarda, con questa tensione nudica che c'è. C'è una tensione nudica, Sandro, da 890 mAh, cosa pensi? No, ripetimi un attimo, perché sto cercando di inquadrare una cosa stranissima. Non capisco, sentivo una specie di innesco. Però dipende dal mio apparato. No, io qua c'ho un rumore del trasformatore, lo sento, ma non è un problema. Non è un problema grave, però domani è risolto. Adesso lo faccio scaldare e poi domani, come scaricano i condensatori del vapore, lo stringiamo subito questo trasformatore. Mentre tu che problema c'hai? Allora, ti sto ascoltando con due apparati in contemporanea. Adesso io sto usando il PM, no? E sono accorto che se alzavo il volume, a un certo punto sembravi tu che stavi innescando, come se tu avessi un ritorno di DF. Però non mi tornava, allora cosa ho fatto? Ho abbassato il volume e ho alzato l'altro apparato. L'altro apparato sei liscio. Quindi una cosa assurda, infatti non riesco proprio a capirla. Come mai se io alzo il volume del DL tu inneschi? Praticamente mi siete senza antenna, non lo vuoi dire, ma quasi. Ok, no, ripetimi questo passaggio perché ho giocato con i volumi. Ho detto che non lo vuoi dire, ma quasi quasi mi ascolti senza l'antenna. Quasi quasi, infatti stavo cercando di capirla meglio questa cosa, però comunque no, arriva bello sparato alla grande, si sente il relay dell'aggancio, è molto molto carino. Questa fa più appunti rispetto all'altra. Questo è un tanno più 3, questo è un tanno più 3, comunque un amplificatore è un TR 922. Ah, l'amore mio, proprio quello che mi piace a me. Me lo guardo sempre, dai, da lontano su Google. Ah, bellino, eh? Con questo topo della trave, come dice un mio amico di Woodson, ne scende. Ne scende. Peccato, tanto tempo fermo, caro Antonio Rode, tu oggi mi hai dato proprio un'idea. Adesso domani mattina lo giro sotto sopra, perché questi 30 kg iniziano a pesare. Lo giro sotto sopra, le metto un panno per non graffiarsi, lo apro sotto e le stringo bene tutti i dati e i controdati che ci sono del trasformatore, perché è solo quello il problema, altri problemi non ce ne sono. Bene, io sapevo di portarlo dalla persona giusta e spero che ne faccia ottimo utilizzo. Vai tranquillo, vai, non ce ne sono problemi. Quindi dimmi da 140 come... Quindi per Sandro Di Alghero è la mia modulazione spinta, bella, chiara, forte. A te cosa ti sembra, Sassari? Aspetta, non ti sto ascoltando col 140, questo qua le casse sono poco fedeli, è una scatola di tonno, come ben detto, quindi mi piace, sicuramente è molto meglio di prima. Vabbè, non c'è problema. Sicuramente molto meglio, sì. Quindi noi facciamo una cosa, ti prendi quello dell'MC60 e usi quello dell'MC60 col 140. Così lo fai sentire tu a me. Ma si può fare questa prova, certo. Si fa, non ci sono problemi. Sì, va di gamma, così le proviamo anche tutte e due, dai, le metto sotto corrente tutte e due e te li faccio sentire un attimino col microfono loro, che mi dici la differenza. Infatti, ok, e allora Sandro, cosa mi racconti questa assenza? Quindi ci ascolti, ma non mi prendi mai, com'è? No, in effetti se tu ci pensi avrei potuto non dire niente e andava bene così, però sì, in effetti succede questo, che la sera magari per un motivo o per l'altro passo un'oretta qui in stanza e guardo una cosa su internet, mi guardo due mail, guardo due cose che mi piacciono, la nostra classica malattia, la stessa che c'è tu, ce l'ho io, quindi andiamo sempre a curiosare su queste cose, perché sento che commenti fai di cosa parlate, quindi abbiamo la stessa malattia. E niente, mi fa piacere avere l'apparato in sottofondo, perché sono più di 20 anni che sono abituato a questo rumore e mi piace, sono contento che c'è gente che chiacchiera, che parla. E vi ascolto, solo che in effetti mi dispiace dire che non entro, non faccio break. Quando siamo qua, problemi non ce ne sono, puoi entrare tranquillamente, qual è il problema? Qual è il problema? Tanto siamo io, Antonio, insomma, una fetta di persone, noi a volte facciamo questo, uomini a volte, anche noi ci divertiamo un po' per ammazzare il tempo. Di solito i discorsi sono quelli. Ok, vai Antonio, prendi. Ma a me non so se riesce a copiarmi. Comunque colgo l'occasione, nel caso fammi da ponte, per invitarlo a visitare la nostra associazione quando sarà. Senti, torna diretto Antonio. No, purtroppo no, e questo è uno dei motivi del perché non recco, perché molto spesso ne ascolto uno, due, su quattro, su cinque e credo sempre di creare qualche disagio nel questeo perché posso perdere parte dei discorsi, perché riesco a farmi sentire, però ho difficoltà ad ascoltare perché comunque sono in mezzo ai palazzi come dicevo, quindi per uscire entro, ma per entrare tu? Positivo. No, ti ha detto Antonio che ti invita a visitare il nuovo sito dell'associazione civile Nicola Tesla, che è una nuova associazione che sta nascendo, anzi diciamo è già nata a Sassari, dove lui è il presidente. Ci sono un po' di persone con la quale anche io. Se ti fa piacere puoi visitarlo, clicchi su in alto a destra dove c'è scritto mi piace e così puoi lasciare qualche commento positivo o negativo, quello che va a te Sandro, capito? Guardagli che è su Facebook. Dove devo cercare? Associazione civili con la testa? Sì, su Facebook, l'abbiamo messo su Facebook. Bella domanda, solo che io non sono su Facebook, non ci crederai. Allora deve aspettare un attimino perché il sito lo stiamo mettendo in linea, deve avere un po' di pazienza. Ok, allora vicepresidente, che un po' di pazienza lo stiamo allineando alla linea normale, quindi a quella che è il sito di avvio normale. Un po' di pazienza, in questi giorni sarà anche attivo il sito diretto dove tutti potranno andare a vedere. È una nuova iniziativa che ha preso Antonio e che quindi con il mio appoggio, con l'appoggio di altri CB, stiamo iniziando a lavorarci, ma adesso faremo la prima riunione ufficiale e poi si vedrà. Comunque io ho mandato un messaggio a tutti gli amici di Alghero, perciò sparci un po' la voce e vediamo se mi danno il consenso per poter aderire. Carino, bella idea. No, perché no? Organizzate il sito, io purtroppo per deformazione professionale Facebook lo lascio fuori da quello che è la mia. E quindi per i siti, forum, tutto quello che vuoi, solo Facebook sono contro per ora. E quindi sì, buona idea, molto molto buona idea, molto può essere di interesse, curiosità, lasciare le tue opinioni, idee, perché no? Certo che sì. Si cerca di fare qualcosa per portare avanti il sistema radio. Va bene, qua sta procedendo sempre bene, sì, a parte vabbè il rumore che io sento, ma non è assordante, la mia modulazione già lo copre perché mi sto ascoltando, ma poi domani già sistemiamo tutto. Devo ammettere che ho verificato bene, il sistema è stabilizzato con una costante vocal leggermente più bassa e i picchi sono migliorati. In pratica prima, come ti dicevo, avevo una costante fissa di 9, picchi positivi a 9,10, però poi se ne scendeva fino a 8,5. Adesso invece la costante vocal è stabile a 8,5 e i picchi sono tutti positivi. Ok, e allora si sta stabilizzando pian pianino. Pian pianino vedrai che già si stabilizza tutto, vai, non ci stanno problemi. Vai Antonio, prendi. Roger, io vi devo chiedere 10 minuti di QRX che devo andare un attimino a fare carica batterie. Va bene, QRX concesso e permesso. Siamo qua, ci sentiamo dopo Antonio. Avanti Sandro. Di Roger, buon QRX, Antonio, scusami tanto davvero per il fatto che non riesco a sentirti e colpa mia, e le condizioni sono queste. Bene o male almeno mi potevo permettere di stare in silenzio mentre sentivo la tua voce. Questo scemo è da pischiano. Non lo passa a ehi Alessandro, non mi chiedeva Antonio che stava fischiando qua, io non sento nessun fischio, poi ripeto, ribadisco che Sandro Larghero arriva a 9,10. Quindi non ho difficoltà, non ho problemi, non mi interessa niente di chi fischia, di chi fiaschia. Ok, vai a mangiare tranquillo, io continuo a parlare con Sandro. Vai Sandro, riprendi. Larghero, tutto ok, non ho più sentito a piangere. C'è che non stava molto bene. Ma spero che la notizia che hai non sia recente, ho saputo che ha avuto sì, un periodo magari un po' giù, però successivamente, se non ci sono altre notizie, ho saputo che si era ripreso, che stava bene, ha rientrato in frequenza, aveva fatto fare gli scambi, è stato un piacere in effetti risentirlo, ma aveva detto che stava tutto a posto. Però in effetti adesso è un pochino che non lo sto sentendo né vedendo, perché comunque di passaggio transitavo dove ho il QTH oppure al zona di abitudine, però sì, in effetti un po' che non lo sento. Ma speriamo tutto bene, se non sono novità delle tue informazioni, allora sappi che si era ripreso e andava meglio. Capo positivo. No, io l'ho sentito da poco e mi ha detto che c'aveva un piede mezzo malandato, una cosa del genere, e quindi non so esattamente se si è poi sistemato il tutto. Infatti c'è l'antenna un po' capottata, non so, dal vento, boh, forse si è staccato sopra il PL, e gli ho detto quando sei a posto, quindi ti riprendi, me lo dici e sistemiamo tutto, non ci sono problemi. Io passo da lì, la scena già mi sembra magari un problema su PL, sì, però a livello di verticalità è dovrebbe essere in regola. Sì. Sì. No, evidentemente come gli si è staccato il PL da sopra e sta utilizzando solo la calza e quindi i segnali li riceve molto bassi, lui arriva molto basso rispetto a prima, però basta abbassare l'antenna e dare una sistematina, ma a quel punto lì ha detto che la metterà sicuramente nuova. Ho capito. Va bene. No, io proviene dalle alghe e l'acidità delle alghe comporta un pochino l'acqua gialla in alcuni momenti quando la temperatura dell'acqua sale o scende. Però sì, c'è che ti fa il bagno, basta andare appena appena verso la nuova rotonda e già è meglio. Sì, quello senza un dubbio. Conosco perfettamente tutta la zona, però dico, ha fatto il bagno lì, proprio in quella zona, mamma mia, che schifo, guarda, e mi si è fatto un porto. Sì, sì, almeno il porto sai dove ti fa il bagno, lì non lo sai neanche, così. Vabbè, signor Sandro, io penso così, Secondo me è così, poi non so, ma già Alessandro. Avanti Antonio Prodi, Alessandro, no, sto provando il dipolo dal ghiero e lo sento lo stesso, sentiero 7 qua. Anziché 9-10, avanti Grotte. Ma purtroppo vi devo lasciare perché stanno arrivando degli amici a sorpresa, di quelle belle, di quelle brutte sorprese. Ascolta, ti volevo chiedere, ma adesso con cosa stai uscendo? Con la KB 23. Liscio? No, sempre attaccato. Ma perché ti sei stabilizzato? Adesso proprio è un bombo. Si stabilizza quando, te l'ho già detto, te l'ho spiegato, quando l'accoppiamento della nudica rimane stabile, quindi man mano che tu parli si accoppiano tutte le valvole, quindi si stabilizza anche come tensione di anodica e quindi rimane sempre stabile, non cambia più niente. Appagava, ma come sei? 4? No, 3. Ma ok, ti lascio, dai, goditelo e ci sentiamo al più presto, domani si coincide. Buon 144, buon quando lo farai, buon QSO con Angelo, ci senti, mi dispiace purtroppo. Una cosa ti volevo chiedere, non hai sentito il Barracuda? Per niente, lo stavo aspettando, si faceva due chiacchiere, per niente. Bisogna che mi faccia due chiacchiere con Antonello, vabbè, non ti preoccupare. Domani viene a prendere il 140, ecco lo dice sempre, e tanto è pronto. Lo tengo ancora acceso per vedere alcune cosette, ma è già chiuso, non ci sono problemi. Ma ti ringrazio, Fra. Buon QSO, nel caso io rimango un attimino in ascolto e dopodiché vi devo proprio lasciare. Salutami anche Alessandro Conan e ci sentiamo al più presto. E un saluto anche a tutti gli ascoltoni eventuali. Ciao, ciao. Ciao, Anto. Salutami a Chiara e i tuoi amici. Ci sentiamo domani, allora dai, non ci sono problemi. Ciao, buonanotte, ci sentiamo per telefono domani, così passi e ti prendi la radio col microfono. A proposito, scusami, ti volevo dire, mi dovevano dare una risposta per quanto riguarda la casa, me la deve dare domani. Se non mi dà risposta negativa, preparati una settimana, Sì, ci facciamo un fine settimana giù, dai, e parliamo domani in persona. Ciao, ciao. Ciao, Anto, saluti a casa. Avanti, io, Sandro, ti saluto Antonio Grode, che è arrivata gente a casa e quindi deve chiudere. Vai, Sandro. Ciao, ti senti qua con l'antenna grande, figurati col dipolo. Addirittura. E allora? No, ma la potenza già c'è, il segnale c'è, è 7. Rispetto a prima che 9-10, Santiago 7, ma va alla grande, anche di poco va alla grande, ti ascolto benissimo Sandro, non ci sono problemi, ma l'hai modificato quindi l'850 tu? nessun problema. Thank you. Alessandro, erano altri tempi. Periodo preferisco stare qua nella 27. bisogno di dare gli esami di telegrafia. Però mi hanno fatto stare 3 mesi che studiavo. Lasciate in bianco, ne aveva già sbagliato. basta. E boh, io mi sono accorto che ci sono tante di quelle stronzate che la metà basta. Saluti a casa, al correo.